Il club della buona condotta. Una pioggerella leggera era caduta per tutto il giorno, una lieve, delicata e bellissima pioggia di primavera, che in qualche modo sembrava annunciare in un sussurro l'arrivo del biancospino e il risveglio delle violette. Il porto e la baia, così come i campi in basso lungo la costa, si erano coperti di una foschia grigio perla. Ma adesso, di sera, la pioggia era cessata e la foschia si era dispersa nel mare. Le nuvole punteggiavano il cielo sopra la baia come tante piccole roselline e sulla sponda opposta le colline scure si stagliavano su uno sfondo color narciso e cremisi. Una grande stella argentea e scintillante vegliava sopra la spiaggia. Un vento frizzante e ballerino si era levato dalla valle dell'arcobaleno, portando il profumo resinoso degli abeti e del muschio bagnato. Cantò tra i vecchi abeti intorno al cimitero e arruffò gli splendidi riccioli di Faith, seduta sulla tomba di Ezekiah Pollock con un braccio sulle spalle di Mary Vance e l'altro su quelle di Una. Carl e Jerry erano seduti di fronte a loro su un'altra tomba e dopo essere rimasti chiusi in casa per tutto il giorno erano pronti a far guai. Stasera sembra quasi che l'aria luccichi, vero? Perché si è lavata per bene. Ecco perché, disse Faith allegra. Mary Vance la guardò con aria tetra, sapendo quel che sapeva o che credeva di sapere. Faith le sembrava fin troppo spensierata. Mary aveva qualcosa da dire e intendeva farlo prima di tornare a casa. La signora Elliot l'aveva mandata alla canonica con delle uova appena deposte e le aveva detto di non stare via più di mezz'ora. La mezz'ora in questione era quasi terminata, perciò Mary distese le gambe e disse: «Lascia perdere l'aria, ascoltami. Voi ragazzi della canonica dovete imparare a comportarvi meglio di come avete fatto questa primavera. Punto e basta. Stasera sono venuta apposta per dirvelo. La gente dice cose orribili di voi». «Che abbiamo fatto questa volta?» esclamò Faith, sbalordita, togliendo il braccio dalle sue spalle. Le labbra di Una presero a tremare e la sua anima sensibile sussultò dentro di lei. Mary era sempre così crudelmente sincera. Jerry fece lo spavaldo e si mise a fischiare. Voleva far vedere a Mary che non gli importava un fico secco dei suoi rimproveri. Come si comportavano non erano affari suoi. Che diritto aveva di fargli una lezione di buona condotta? «Quello che fate adesso, quello che fate sempre», rispose Mary. «Appena la gente smette di chiacchierare della vostra ultima malefatta, voi combinate qualcosa di nuovo e tutto ricomincia. Sembra proprio che non abbiate idea di come devono comportarsi i figli di un pastore». «Ah! Magari puoi dircelo tu», disse Jerry sarcastico. Ma il sarcasmo non aveva effetto su Mary. «Posso dirvi cosa succederà se non imparate a comportarvi meglio? Il comitato chiederà le dimissioni di vostro padre. Ecco qua, signor Jerry, so tutto io. Lo ha detto la signora Davis alla signora Elliot, l'ho sentita io. Tengo sempre le orecchie ben aperte quando la signora Davis viene a prendere il tè. Ha detto che peggiorate di giorno in giorno, ma che c'era da aspettarselo visto che nessuno vi educa. Però la congregazione non potrà tollerarlo ancora a lungo, dovranno fare qualcosa. I metodisti non fanno che ridere di voi e i presbiteriani sono molto offesi per questo. Lei ha detto anche che quel che vi serve è una bella dose di bastonate. Santo cielo, se servissero davvero a rendere le persone più buone, io dovrei essere una giovane santa. Comunque, non ve lo sto dicendo per offendervi, è che mi dispiace per voi». Mary era diventata un'esperta nell'arte della condiscendenza. «Io lo capisco che non avete molta scelta, considerando come stanno le cose, ma le altre persone non sono indulgenti quanto me. La signorina Drew dice che la scorsa settimana Carl aveva una rana nella tasca alla scuola domenicale che è saltata fuori durante la lezione. Ha detto che non ci verrà più. Ma perché non tieni i tuoi animaletti a casa, Carl?» «Me la sono subito rimessa in tasca», rispose Carl. «Non ha fatto del male a nessuno, povera piccola rana. Comunque, se la vecchia Jane Drew non venisse più a insegnare alla scuola domenicale, io sarei contento, la odio». E comunque suo nipote aveva un rimasuglio di tabacco nella tasca e ce l'ha offerto da masticare mentre il signor Clow pregava. Quello è peggio di una rana, direi. No, perché le rane non te le aspetti, fanno più scena. E poi lui non l'hanno visto. Anche quella gara di preghiera che avete fatto la scorsa settimana ha sollevato uno scandalo, ne parlano tutti. Perché? Lì c'entravano anche i Blythe, esclamò Faith indignata. È stata Nan Blythe a proporla e Walter ha vinto il premio. Beh, in ogni caso la colpa l'hanno data a voi, ma non sarebbe stato così brutto se non l'aveste fatta nel cimitero. A me pare che un cimitero sia un ottimo posto dove andare a pregare, rispose Jerry. Il diacono Hazard è passato proprio in quel momento, disse Mary. Ti ha visto con le mani giunte e ti ha sentito gemere dopo ogni frase. Pensava che lo stessi prendendo in giro. In un certo senso è vero, affermò Jerry sfrontato. Ma non sapevo che sarebbe passato proprio di lì. È stato un incidente. Non stavo pregando per davvero. Sapevo che non avrei mai vinto e ho pensato di divertirmi un po'. Walter Blythe sì che sa pregare. Prega bene quanto papà. L'unica di noi a cui piace davvero pregare è una, disse Faith pensierosa. Beh, però, se pregare scandalizza la gente in questo modo, è meglio non farlo più, sospirò lei. Sciocchezze. Potete pregare quanto volete, solo non nei cimiteri e non per gioco. È questo che non andava bene. Questo è prendere il tè sulle tombe. Non l'abbiamo mai fatto. Beh, allora forse era una festa di bolle di sapone, ma avete fatto qualcosa. La gente dall'altro lato della baia giura che avete preso il tè, ma io vi credo. In ogni caso avete usato quella tomba come tavolo. Beh, il fatto è che zia Marta non ci lascia fare le bolle di sapone in casa. Quel giorno poi era molto arrabbiata, spiegò Jerry, e questa vecchia lapide era una tavola perfetta. Non erano deliziose, esclamò Faith, gli occhi illuminati da quel ricordo. Ci si riflettevano dentro gli alberi, le colline, il porto. Sembravano piccoli mondi fatati. E quando le abbiamo lasciate andare, sono volate giù nella valle dell'arcobaleno. Tutte tranne una che invece è salita su ed è scoppiata sul campanile della chiesa metodista, disse Carla. Sono contenta di averlo fatto almeno una volta, visto che ora abbiamo scoperto che ha sbagliato, disse Faith. Avreste potuto fare le bolle di sapone anche sul prato, disse Mary, insofferente. A quanto pare non riesco proprio a cacciarvi in testa un po' di buon senso. Ve l'hanno detto 1 milione di volte che non si gioca nel cimitero. I metodisti ci tengono. È che ce lo dimentichiamo, disse Faith, dispiaciuta. E il prato è così piccolo, è pieno di bruchi e di arbusti e di altre cose. Non possiamo stare sempre nella valle dell'arcobaleno. Che altro posto ci resta? Il punto sono le cose che fate nel cimitero. Se vi limitaste a stare qui seduti a chiacchierare tranquillamente, come stiamo facendo adesso, non importerebbe a nessuno. Beh, davvero non so come andrà a finire, ma so che il signor Warren ne parlerà sicuramente a vostro padre. Il diacono Hazard è suo cugino. Non voglio che facciano preoccupare papà a causa nostra, disse una. Beh, la gente pensa che lui dovrebbe preoccuparsi un po' di più di voi. Io davvero non lo capisco. In un certo senso è come se fosse rimasto bambino e avesse bisogno di qualcuno che badi a lui, proprio come voi. Beh, forse tra non molto ce l'avrà se le voci che circolano sono vere. Che vuoi dire? Chiese Faith. Davvero non ne avete idea? Rispose Mary. No, nessuna. Che vuoi dire? Beh, siete proprio degli animi innocenti, parola mia. Ne parlano tutti. Vostro padre va spesso a trovare Rosemary West. Diventerà la vostra matrigna. Non ci credo, esclamò una rossa in viso. Beh, non lo so, riferisco solo quello che dice la gente, non lo do per vero. Ma sarebbe una cosa buona. Rosemary West vi farebbe rigare dritto, ci scommetto un centesimo. Adesso è tutta dolcezze e sorrisi, ma sono sempre così finché non accalappiano un uomo. Però voi avete davvero bisogno che qualcuno vi educhi. State disonorando vostro padre, mi dispiace per lui. Ho sempre avuto una grande considerazione di vostro padre, da quella sera in cui mi ha parlato in maniera così gentile. Da allora non ho mai più imprecato né detto una bugia. A me piacerebbe vederlo felice e contento, con i bottoni attaccati e dei pasti decenti, e voi ragazzi tirati a lucido e quella vecchia gallina di Marta rimessa a posto. Come ha guardato le uova che ho portato stasera, spero siano fresche, ha detto. E io allora ho sperato che fossero marce. Mi raccomando, fatevene dare una testa per colazione, incluso vostro padre, e lamentatevi se non lo fa. È per questo che ve le abbiamo mandate, ma io non mi fido della vecchia Marta. È capacissima di darle da mangiare al gatto. La lingua di Mary si riposò per qualche istante e un breve silenzio calò sul cimitero. I ragazzi della canonica non avevano molta voglia di parlare. Stavano digerendo quella novità insieme alle nuove e non troppo allettanti idee che Mary aveva suggerito. Jerry e Carl erano abbastanza sbalorditi, ma in fondo che gli importava? E poi magari non c'era niente di vero. Faith invece era contenta, soprattutto Solo una era davvero turbata. Aveva voglia di andarsene da qualche parte a piangere. Avrò delle stelle nella mia corona. Si udì cantare il coro metodista dalla chiesa dove avevano cominciato le prove. Io ne vorrei tre, disse Mary, le cui nozioni teologiche si erano notevolmente accresciute da quando era andata a vivere con la signora Elliot. In cima alla testa, come una coroncina, una grande al centro e due piccole ai lati. Dice che le anime hanno taglie diverse. Per forza, quella dei neonati deve essere più piccola di quella dei grandi. Beh, si sta facendo buio, devo filare a casa. Alla signora Elliot non piace che rimanga fuori dopo che ha calato il sole. Incredibile. Quando vivevo con la signora Wiley, giorno e notte erano più o meno la stessa cosa per me. Ma ne importava quanto importa ai gatti. Mi sembrano passati 100 anni. Comunque, state attenti a cosa dite e provate a comportarvi bene. Fatelo per vostro padre. Io sarò sempre al vostro fianco e vi difenderò sempre, potete metterci la mano sul fuoco. La signora Elliot dice che non ha mai visto nessuno leale ai suoi amici quanto me. Sono stata molto impertinente con la signora Davis quando ha parlato di voi male e la signora Elliot dopo mi ha fatto una bella ramanzina, che poi anche la cara Cornelia ha una lingua niente male. In realtà era contenta perché detesta quella Kitty Alec e voi invece le state simpatici. Io lo capisco come funziona la gente. Mary se ne andò compiaciuta con se stessa, lasciandosi alle spalle un gruppetto abbastanza depresso. Quando viene qui, Mary Vance dice sempre qualcosa che ci fa rimanere male, disse una offesa. Avremmo dovuto lasciarla morire di fame in quel vecchio fienile, disse Jerry vendicativo. Oh, che cosa cattiva, Jerry, rispose una. Beh, a questo punto che differenza fa? Replicò Jerry, impenitente. Se la gente dice che siamo cattivi, allora tanto vale esserlo. No, se danneggia papà, lo supplicò Faith. Jerry si agitò a disagio, adorava suo padre. Dalla finestra del suo studio lo vedevano seduto alla scrivania, ma non sembrava stesse leggendo né scrivendo. Aveva la testa tra le mani e a giudicare dal suo atteggiamento sembrava stanco e abbattuto. I bambini se ne accorsero subito. Oggi deve avere qualcosa che lo preoccupa, disse Faith. Vorrei proprio capire come andare avanti senza che la gente parli di noi. Oh, Jem Blythe, mi hai spaventata! Jem Blythe era sgattaiolato nel cimitero ed era venuto a sedersi accanto alle ragazze. Prima aveva perlustrato la valle dell'arcobaleno ed era riuscito a trovare il primo ciuffo di bianche stelline di Arbutus da portare a sua madre. I bambini della canonica rimasero in silenzio dopo il suo arrivo. Quella primavera Jem aveva cominciato ad allontanarsi un po' da loro. Stava studiando per l'esame di ammissione alla Queen's Academy e il pomeriggio rimaneva a scuola con gli altri ragazzi grandi per delle lezioni aggiuntive. La sera, quindi, aveva sempre molto da fare, perciò raramente riusciva a raggiungere gli altri nella Valle dell'Arcobaleno. Stava lentamente veleggiando verso il regno degli adulti. «Chi avete stasera?» chiese. «Non siete molto di compagnia?» «No, non molto», disse Faith, addolorata. Ma non lo saresti neanche tu se sapessi che stai disonorando tuo padre e che la gente parla male di te. Chi è che parla male di voi? Tutti, così ha detto Mary Vance. Faith confidò le sue inquietudini al comprensivo Jem. Capisci, concluse amaramente, il punto è che non abbiamo nessuno che ci educhi e quindi finiamo nei guai e la gente pensa che siamo cattivi. Perché non vi educate da soli? Suggerì Jem. Ecco come potete fare. Fondate un club della buona condotta e datevi delle punizioni tutte le volte che fate qualcosa di sbagliato. È una buona idea, disse Faith, molto colpita. Però, aggiunse un po' dubbiosa, a volte noi pensiamo che non ci sia niente di male in quello che facciamo, invece la gente lo trova terribile. Come facciamo a decidere? Non possiamo disturbare ogni volta papà. E comunque lui spesso deve partire. La maggior parte delle volte basterà fermarsi a riflettere prima di fare qualcosa e chiedersi cosa ne penserebbe la congregazione, disse Jem. Il problema è che vi lanciate nelle cose senza pensarci. Mamma dice che siete tutti troppo impulsivi, come era lei una volta. Il club della buona condotta vi aiuterà a pensare alle vostre azioni, se sarete onesti nell'assegnarvi delle punizioni quando infrangerete le regole. La punizione deve farvi soffrire in qualche modo. Altrimenti non serve a niente. Dobbiamo picchiarci a vicenda? No, non questo. No, dovete pensare a diverse punizioni a seconda di chi deve essere punito. E poi non dovrete punirvi a vicenda, ognuno punirà se stesso. Ho letto di un club del genere in un libro, provate a vedere se funziona. Sì, proviamo, disse Faith. Quando Jem se ne andò, tutti acconsentirono. Se le cose non vanno, dobbiamo trovare il modo di raddrizzarle, disse Faith con determinazione. Dobbiamo essere giusti e onesti, come ha detto Jem, disse Jerry. Il club serve a educarci, visto che nessun altro lo fa. Ma non c'è bisogno di avere tante regole, scegliamone una sola, e tutti quelli che la infrangeranno saranno puniti. Ma come? Ci penseremo poi. Il club si riunirà qui nel cimitero tutte le sere per parlare di quello che abbiamo fatto durante il giorno. E se pensiamo di aver fatto qualcosa di sbagliato o qualcosa che mette in imbarazzo papà, il colpevole o il responsabile sarà punito. Ecco la regola. La punizione la decideremo insieme. Deve essere adeguata alla colpa commessa, come dice il signor Flagg. E quello a cui toccherà non potrà tirarsi indietro. Oh, ci sarà da divertirsi, concluse Jerry soddisfatto. La festa con le bolle di sapone è stata una tua idea, disse Faith. Ma quello era prima che fondassimo il club, rispose subito Jerry. Cominciamo da stasera. E se non riusciamo a metterci d'accordo su cosa è giusto e cosa no, o su quale punizione dare? Per esempio, se due di noi pensano una cosa e due a un'altra, dovremmo essere cinque in questo club. Possiamo chiedere a Jem Blythe di fare da giudice, è il ragazzo più educato di Glen St. Mary. Ma secondo me, nella maggior parte dei casi ce la caveremo da soli. Però dobbiamo tenere questa faccenda segreta e non dite una parola a Mary Vance, altrimenti vorrà unirsi al club e occuparsi lei di educarci. Secondo me, disse Faith, non ha senso rovinarci tutte le giornate con una punizione. Stabiliamo un giorno soltanto. È meglio il sabato, perché non c'è la scuola, suggerì una. E vorresti rovinare l'unico giorno di vacanza della settimana? Esclamò Faith. No, no, scegliamo il venerdì piuttosto. È già il giorno in cui si mangia pesce e noi odiamo tutti il pesce. A questo punto conviene radunare tutte le cose spiacevoli nella stessa giornata, così il resto della settimana potremo divertirci. Non ha senso, disse Jerry in tono autoritario. Così non funziona. Dobbiamo punirci man mano che sbagliamo e cercare di non farlo più. Allora, siamo tutti d'accordo, giusto? Il club della buona condotta serve a educarci. Abbiamo stabilito di punirci quando ci comportiamo male e di fermarci a riflettere prima di fare qualsiasi cosa, per chiederci se può danneggiare papà. Chiunque rifiuti le punizioni verrà buttato fuori dal club e non potrà più giocare con gli altri nella Valle dell'Arcobaleno. In caso di dispute, il giudice sarà Jem Blythe. E quindi niente più insetti alla scuola domenicale, Carl, e basta masticare la resina in pubblico, signorina Faith. E tu smettila di prendere in giro i membri della congregazione quando pregano, e anche di andare ai raduni di preghiera dei metodisti. Perché? Non c'è niente di male in quello, protestò Jerry stupefatto. Lo ha detto la signora Elliot, dice che i figli del pastore devono partecipare solo alle funzioni presbiteriane. Accidenti, io voglio continuare ad andarci. Esclamò Jerry. I raduni dei metodisti sono molto più divertenti dei nostri. Hai detto una parolaccia, esclamò Faith. Adesso devi punirti. Oh, ancora non abbiamo messo niente nero su bianco, stiamo solo parlando. Il club non è fondato finché non scriviamo un documento e lo firmiamo. Dovremmo fare un atto costitutivo e delle leggi, e lo sai benissimo che non c'è niente di male ad andare ai raduni di preghiera. Ma dobbiamo punirci anche se facciamo qualcosa che può danneggiare papà, non solo qualcosa di sbagliato. Questo non fa male a nessuno. Lo sai che la signora Elliot ce l'ha a morte con i metodisti. Nessun altro si lamenta perché ci vado. E mi comporto sempre bene. Comunque chiediamo a Jem o alla signora Blythe e io seguirò quello che dicono loro. Vado a prendere un pezzo di carta e una lanterna, così potremo firmare. 15 minuti più tardi il documento fu solennemente firmato sulla tomba di Ezekiah Pollock, al centro della quale era stata posizionata la fumosa lanterna della canonica. I bambini erano inginocchiati tutti intorno. Il signor Clow passò proprio in quel momento. Il giorno dopo tutta Glen parlava del fatto che i ragazzi della canonica avevano fatto di nuovo una gara di preghiera e poi avevano giocato a nascondino tra le tombe alla luce di una lanterna. Questa giunta derivava probabilmente dal fatto che dopo aver firmato l'accordo, Carla aveva preso la lanterna e si era addentrato, con circospezione, nel piccolo avvallamento per controllare il suo formicaio. Gli altri, invece, erano tornati alla canonica ed erano andati a letto. Secondo te è vero che papà sposerà la signorina West? Aveva chiesto una Faith con voce tremante dopo aver detto le preghiere. Non lo so, ma mi piacerebbe, aveva risposto lei. Oh, a me no, aveva sussurrato una. Lei adesso mi piace, ma Mary Vance dice che le persone cambiano completamente quando diventano matrigne. Dice che le matrigne sono cattive, arrabbiate e detestabili e ti mettono contro il tuo stesso padre. E dice che è sempre così, non ha mai sentito di casi in cui le cose sono andate diversamente. Io non credo che la signorina West farebbe mai niente del genere, aveva esclamato Faith. Mary dice che lo fanno tutte. E lei ne sa di matrigne, Faith, ne ha viste centinaia, tu invece neanche una. Mi ha raccontato cose tremende su di loro. Ne ha conosciuta una che picchiava le figlie piccole di suo marito fino a farle sanguinare e poi le rinchiudeva per tutta la notte nella cantina del carbone, al buio e al freddo. Dice che tutte le matrigne non vedono l'ora di fare cose del genere. Io non credo che la signorina West lo farebbe. Tu non la conosci bene quanto me, una. Pensa a quell'uccellino adorabile che mi ha fatto avere. Io voglio proprio bene a quell'uccellino, anche più che ad Adam. È che quando diventano matrigne, cambiano. Mary dice che è inevitabile. Per quanto mi riguarda, essere picchiata mi farebbe soffrire meno che sapere che papà ci odia. Lo sai benissimo che papà non potrebbe mai odiarci. Non essere sciocca, una. Secondo me non c'è niente di cui preoccuparsi. E poi, se facciamo funzionare questa cosa del club e ci educhiamo per bene, papà non ci penserà neanche a risposarsi. Ma se lo fa, so per certo che la signorina West sarà buona con noi. Una, tuttavia, non era convinta allo stesso modo e aveva pianto fino ad addormentarsi. Un impulso caritatevole. Per circa 15 giorni. Il club della buona condotta non creò problemi e parve funzionare alla grande. Jane Blythe non fu chiamato neppure una volta a fare da giudice e nessuno dei bambini della canonica diede adito a pettegolezzi tra la gente di Glen. Riguardo le piccole infrazioni commesse in casa, si controllavano a vicenda e si sottoponevano coraggiosamente alle punizioni che in genere erano la volontaria assenza da qualche allegro gioco del venerdì sera nella Valle dell'Arcobaleno, oppure un riposo forzato a letto in uno di quei pomeriggi di primavera in cui tutti non vedevano l'ora di uscire e starsene all'aperto. Faith, per punirsi di aver chiacchierato alla scuola domenicale, si condannò a trascorrere una giornata intera senza dire una sola parola, se non quando era strettamente necessario, e riuscì a rispettare la punizione. Purtroppo, proprio quel giorno, il signor Baker era arrivato dall'altro lato della baia per far visita alla canonica e ad aprirgli la porta era stata proprio Faith. Non aveva risposto al suo cordiale saluto e in silenzio se n'era andata a chiamare suo padre. Il signor Baker si era offeso e quando era tornato a casa aveva detto a sua moglie che la maggiore delle Meredith era una ragazzina timidissima e imbronciata, maleducata al punto da non rispondere se qualcuno le parlava. Ma questo era stato tutto, e in generale le loro punizioni non facevano male a nessuno. Tutti loro, però, cominciarono a sentirsi un po' troppo fiduciosi che quella faccenda di educarsi fosse tutto sommato abbastanza semplice. Immagino che la gente comincerà presto a vedere che sappiamo comportarci bene come tutti gli altri, disse Faith, entusiasta. Non è difficile una volta che ci si mette d'impegno. Lei e una erano sedute sulla tomba dei Pollock. Era stata una giornata di tempesta primaverile, fredda e umida, e la valle dell'arcobaleno era fuori questione per le ragazze. I ragazzi di Ingleside e della canonica invece ci si erano avventurati per andare a pescare. La pioggia era cessata, ma il vento dell'est soffiava senza sosta dal mare, penetrando fin nelle ossa. La primavera, precocemente annunciata, tardava ad arrivare e nell'angolino più a nord del cimitero c'era ancora una spolverata di vecchia neve e ghiaccio. Lida Marsh, che era venuta alla canonica a portare delle aringhe, varcò il cancello con un brivido. Viveva nel villaggio dei pescatori vicino al porto e da 30 anni suo padre aveva l'abitudine di mandare alla canonica il primo pescato della primavera. Non si faceva mai vedere in chiesa, era un gran bevitore, un uomo impulsivo, ma finché continuava a regalare le aringhe alla canonica tutte le primavere, come suo padre aveva fatto prima di lui, Aveva la sensazione di aver regolato i suoi conti annuali con Nostro Signore. Se avesse smesso di mandare i primi frutti della stagione, sapeva di non potersi aspettare una buona pesca di sgombri. Lida era una bambina di 10 anni, ma sembrava ne avesse di meno perché era una creaturina piccola e magra. Quella sera, mentre si avvicinava piano piano, ma con coraggio alle ragazze della canonica, dava l'impressione di non avere mai trascorso un giorno al caldo in vita sua. Aveva il viso paonazzo, gli occhi azzurri e audaci erano arrossati e lucidi, indossava un malconcio vestitino stampato e un lacero cardigan di lana, che le stava stretto sulle spalle sottili e le tirava sotto le braccia. Aveva percorso i 3 chilometri dal porto a piedi nudi, lungo una strada ancora coperta di neve, fanghiglia e melma. Gambe e braccia erano paonazze quanto il viso, ma a Lida non importava. Era abituata ad avere freddo, ed era già un mese che andava in giro scalza, come tutti gli altri numerosi bambini del villaggio. Non c'era neanche un filo di autocommiserazione in lei, mentre si sedeva sulla tomba e sorrideva allegra a Faith e Una, che ricambiarono. La conoscevano poco, si erano incontrate giusto un paio di volte l'estate precedente quando loro erano scese al porto insieme ai ragazzi Blythe. Ciao, disse Lida. Che serata, eh? Un tempo da cani. Allora perché sei uscita? Chiese Faith. Papà mi ha mandata a portarvi delle aringhe, rispose Lida. Poi fu scossa da un brivido, tossì e mostrò i piedi nudi. Non stava pensando a se stessa né ai suoi piedi e non stava cercando compassione. Li aveva sollevati solo per toglierli dall'erba umida intorno alla tomba, ma Faith e Una furono subito sopraffatte dalla pena per lei. Aveva un'aria così infreddolita e misera. Ma perché sei scalza in una serata fredda come questa? Esclamò Faith. Devi avere i piedi quasi congelati. Più o meno, disse Lida orgogliosa. Ve lo dico, la camminata dal porto è stata un'impresa. Perché non ti sei messa calze e scarpe? Chiese Una. Non ne ho più. Quelle che avevo le ho consumate quest'inverno, rispose Lida con una certa indifferenza. Per un attimo Faith la fissò inorridita. Era una cosa terribile. Quella bambina, che era praticamente una loro vicina di casa, era mezza congelata perché non aveva né calze né scarpe da mettersi in quella piovosa giornata di primavera. L'impulsiva Faith non riusciva a pensare ad altro che a quanto fosse orribile. Un istante dopo si tolse le scarpe e le calze. Tieni, prendile tu, disse mettendole in mano una sbalordita Lida. E sbrigati prima di morire di freddo, io ne ho altre, mettitele. Lida si riscosse e mentre stringeva il dono che le veniva offerto, una scintilla balenò nei suoi occhi spenti. Se le sarebbe messe di corsa, prima che qualcuno di più autorevole venisse a chiedergliele indietro. Nel giro di un minuto o poco più si tirò sulle calze e sulle gambette scheletriche e infilò le scarpe di Faith, alte fino alle caviglie, magre ma robuste. Ti ringrazio, disse, ma i tuoi non si arrabbieranno? No, e se anche dovessero non mi importa, disse Faith. Come potrei guardare qualcuno morire di freddo senza aiutarlo, visto che posso farlo? Non sarebbe giusto, tanto più che mio padre è il pastore. E non le rivorrai indietro? Giù al porto continua a fare freddissimo anche dopo che quassù l'aria si è riscaldata, disse Lida furba. No, tienile pure, te le ho regalate. Io ne ho un altro paio e ho un sacco di calze.